Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta, o su Twitter digitando @luogoc, oppure scrivete sulla nostra mail luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è i 20 anni vengono una volta sola. Nel 1991, presso il centro sociale occupato autogestito Officina 99 a Napoli, si formano le 99 Posse, gruppo rapper ragamuffin destinato a portare l'esperienza delle posse e dei centri sociali alla ribalta del panorama radiotelevisivo italiano, soprattutto grazie al successo del loro primo album Curre Curre Wagliò, circa 3 anni dopo. Concerti, album, apparizioni televisive, tour in tutta Italia e non solo, determinano il successo del gruppo, che nei testi affronta, diciamo, tematiche politiche e sociali proprio dell'epoca in cui viviamo: la globalizzazione, il controllo degli stati sulla vita dei singoli, la libertà di movimento e di espressione, l'ingiusta distribuzione delle ricchezze e la ricerca di economie alternative a quella neoliberista. A distanza di 20 anni, i 99 Posse ripropongono quell'esperienza pubblicando l'album Curre Curre Wagliò 2.0, Non un passo indietro, da mercoledì disponibile nei negozi fisici, prima lo era invece solamente su quelli virtuali tipo iTunes, con tantissimi ospiti e nuove sonorità. Ma la domanda è: come sono cambiati i 99 in questi 20 anni, e legandoci al luogo comune, come è cambiato il loro pubblico e soprattutto quali sono le differenze tra l'Italia dove i 99 Posse muovevano i primi passi e il paese attuale? Di tutte queste tematiche ne parliamo in collegamento telefonico con Luca Persico, a.k.a. Ozulu, voce storica del gruppo Partenopeo. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca, senti, voi muovevate i primi passi nell'Italia di fine Prima Repubblica, quando, diciamo, un vuoto di potere causato dalla caduta dei grandi partiti del dopoguerra, paradossalmente però lasciava spazio ad esperienze di aggregazione alternative. Erano gli anni dell'occupazione, delle grandi manifestazioni popolari contro la classe dirigente, le grandi manifestazioni per esempio contro la mafia, che in quegli anni attuava un piano stragista. Tutto questo fermento portava in sé grandi aspettative di rinnovamento, però poi, insomma, hai visto come è andata a finire, insomma, diciamo, ha consegnato però il paese a 20 anni. È andato a finire che volevo andare al funerale di Craxi per farmi un pianto, ma non ci sono andato solo perché la mia presenza sarebbe stata fraintesa, diciamo. Scusami, a quello di Andreotti, quello di Craxi era ancora invischiato abbondantemente nelle vicende. Ma tu in generale come te le ricordi? Non è così nera come sembra, io la vedo, cioè, ovviamente devo crederci, perché se smetto di crederci smetto di vivere, ma c'è però più di un appiglio sul quale attaccarsi per crederci ancora, il principale dei quali è la situazione dei movimenti attuale. Sono sicuramente molto scollegati, sono sicuramente molto anche in polemica gli uni con gli altri, ma ce ne sono tantissimi, si sono veramente moltiplicati e quadruplicati rispetto agli anni 90, sia gli spazi occupati che le situazioni di movimento, che i momenti di dibattito tra i giovani, che poi il numero complessivo di questi qua sia inferiore di quello che c'era negli anni 90 è un dato anche abbastanza naturale, considerando che tutti i movimenti hanno i loro apici, poi le loro fasi di discesa, e poi però prima o poi arrivano anche i momenti in cui ritornano in qualche maniera. E quando ci sarà il prossimo grande momento di fermento culturale, speriamo internazionale, noi saremo sicuramente molto più preparati di quanto non fossimo nei primi anni 90, periodo in cui ci siamo dovuti inventare la pratica dell'occupazione, poi abbiamo dovuto occupare, poi abbiamo dovuto difendere i nostri posti, prima di tutto dagli attacchi scriteriati della stampa che ne parlava senza saperne, della gente per bene che ne parlava senza saperne, della polizia e dello Stato che disinformava. Oggi tutte queste cose sono in qualche maniera superate. Molti centri sociali fanno parte del patrimonio culturale e politico delle città, sicuramente hanno perso molta centralità politica e culturale rispetto a quella che avevano negli anni 90, ma ripeto, non solo ci sono, ma sono anche tutti rinnovati. Io ho fatto abbondanti giri nelle situazioni di occupazione di movimento italiano negli ultimi 5-6 anni, e in ognuno dei posti dove sono stato non conoscevo più del 2% delle persone. Quando un tempo conoscevo tutti, Questo significa che c'è stato un più che abbondante ricambio generazionale, e questo è un altro dato che ti porta ad essere ottimista. Allora Luca, senti, tu hai diciamo vissuto i movimenti appunto di primi anni 90, che corrispondevano anche ai tuoi personali 20 anni. Diciamo che in un certo senso la tua generazione stava sfruttando quel vuoto di potere che si era creato alla fine, tra gli anni 80 e inizio 90, con la brusca interruzione della Prima Repubblica. Diciamo, in un certo senso avete goduto di questo vuoto di potere che si era creato e vi siete inseriti in questa mancanza di una direzione dall'alto. Non lo so se l'abbiamo fatto, forse sì, ma sicuramente abbiamo goduto della rottura di coglioni che la gente in generale aveva conseguito agli anni 80, all'edonismo reganiano, alla finta possibilità per tutti di diventare ricchissimi, famosissimi, bellissimi e seguitissimi, insomma, che erano un po' i paradossi di quel periodo. Gli anni 80 sono stati come gli anni d'oro per alcuni e gli anni più terribili e oscuri per una grandissima maggioranza invece di altri. E quindi questo periodo di oggi mi ricorda molto il finire degli anni 80, con la gente, come dire, che ha problemi ad arrivare a fine mese, che incomincia a diventare un po' troppa, nel frattempo gli stereotipi e le cazzate, le bugie economiche da un lato, proprio generali dall'altro, si fanno sempre più intollerabili. Mi sembra che siano sempre di più le persone che smettono di cascarci, anche se poi i numeri alle elezioni ti fanno immaginare, che ne so, un paese in cui il 25% degli italiani vota i 5 Stelle, il 27% vota il PD e il 23% vota Berlusconi. Non è così. Tutte queste percentuali insieme però appaiono più o meno poco più del 50% della popolazione reale del nostro paese. C'è un sacco di gente che non ci va proprio a votare, e ora che si tornerà a votare ci sarà un sacco di gente che cambierà completamente il proprio voto, perché non sono né questo né quel partito né questo né quel leader veramente a dare alla gente la sensazione del cambiamento. Il voto lo si fa per provare a vedere se cambia qualcosa, ma i cambiamenti reali non passano attraverso né il voto né il cambio completo di tutta la classe politica né la pulizia completa di tutti quelli che hanno rubato, mangiato, abusato e quant'altro. Il cambiamento reale avviene quando si cambia il modello di sviluppo, e il modello di sviluppo si cambia dal basso, si cambia di solito con le rivoluzioni. Luca, senti, adesso state partendo con il tour, il Curre Curre Guaglio 2.0 tour, ma i ragazzi che vi verranno a vedere, insomma, che verranno a ballare sotto al palco, in che cosa si differenziano in quelli che vi venivano a sentire, per esempio, non so, ai tempi di Incredibile Opposizione Tour, quindi parliamo del 94, sempre primi anni 90. Hai fatto una bella domanda, perché in realtà questa domanda mi permette di parlare anche un po' di questo disco nuovo che abbiamo fatto. Già quando abbiamo fatto il primo Curre Curre Guaglio, in realtà facevamo riferimento a quello che noi ritenevamo essere il nostro pubblico, che poi in realtà era quello che era il nostro pubblico, solo che era quello che era il nostro pubblico un attimo prima di farlo il disco. Poi da quando è uscito il disco il nostro pubblico si è prima di tutto quintuplicato e poi ha cambiato sostanzialmente la sua natura. Il pubblico iniziale al quale il primo disco era rivolto era quello stretto dell'area del circuito dei centri sociali, delle occupazioni e dei movimenti. Erano gli unici in grado di comprenderne fino in fondo ogni parola e ogni sensazione che si evocava. Eppure, nonostante questo, nonostante il fatto che noi l'avessimo fatto proprio pensando alla nostra gente, il disco in realtà ha avuto poi un effetto trasversale gigantesco, è riuscito a valicare abbondantemente le porte dei centri sociali occupati per arrivare in tutte le periferie, sia geografiche che culturali che economiche che politiche che dir si voglia, diciamo così. E in tutte queste periferie è arrivato alle orecchie di tutti, sia di quelli che avevano, come dire, gli strumenti per comprenderne a fondo i doppi sensi, e sia alle orecchie di quelli che non li avevano questi strumenti, che non avevano neanche un'abitudine ad affrontare in maniera collettiva i loro problemi, che non aderiscono a nessuna forma di partito, di movimento, di gruppo politico, che non sapevano magari neanche una posse che cos'era. Esatto, eppure sentendo le nostre canzoni in qualche maniera si identificavano in alcune immagini, in alcuni pensieri, si sentivano rappresentati in qualche maniera, si sentivano in qualche maniera visti prima di tutto, e poi in qualche maniera sentivano qualcuno che gridava le cose che avrebbero voluto gridare loro, magari con parole diverse, però sentivano quel disco, quel gruppo, quel momento come loro, anche se poi non appartenevano a quella massa di persone che i cui corpi si mettono in gioco ogni volta che c'è da fare un corteo, ogni volta che c'è da occupare uno spazio. Questo è quello che è successo con Curru Curru Agliò, e quindi quando abbiamo pensato 20 anni dopo di rifarlo Curru Curru Agliò, abbiamo voluto sottolineare proprio nella sua seconda edizione, diciamo, il suo aspetto trasversale, cioè abbiamo voluto fare quello che non abbiamo fatto negli anni 90 quando abbiamo fatto il primo. E quindi l'abbiamo proprio pensato per tutta quella gente che in questo momento ha tanta voglia, ha tanto bisogno di cambiare qualcosa, di mettere in piedi l'alternativa ora e subito, ma non ha molti strumenti per farlo. E utilizza la musica più che altro come sfogo, come momento di autorappresentazione, ma che però finisce nel momento in cui finisce la cassetta, insomma. Ecco, a tutta questa gente noi vorremmo, come dire, raccontare che esiste ancora ed esisterà sempre la possibilità, da un giorno all'altro, di cambiare la propria vita. Basta iniziare a prendere le cose che ti circondano come tue, e quindi interessartici e aggregarti con altre persone per provare a cambiare. Ma secondo te, Luca, come li troverai rispetto a... Lo abbiamo mediato attraverso la scelta degli ospiti, che poi sono tutti quanti molto contigui alla 99 Rosse, non soltanto per il fatto che hanno accettato di entrare nel nostro disco, ma non hanno la nomea di essere gruppi di sinistra, di estrema sinistra, o anche solo militanti. Beh, io e vedo quindi, che in questo Curru Curru Agliò 2... Però questo disco, Curru Curru Agliò, originale, in qualche maniera ha influenzato quello che loro hanno scritto, quello che loro hanno fatto, una parte del loro percorso. Ne erano tutti quanti a conoscenza, lo hanno consumato, alcuni di più, alcuni di meno. Sì, diciamo un po' di nomi, ci stanno Alborosi, Mamma Maria, Scaparezza, J-Ax, Clementino, sì, i Pancras, Sangue Mostro, Iovine, Enzo Abitabile e Bottari, Enzi, Clementino, e penso che li abbiamo detti tutti. Senti, ma come al solito quando Pancras, si fa... Pau De Negrita, Samuel De Subsonica, sì, Bonno, signor K. Senti, ma come succede? Senti, Luca, ma come succede sempre quando si bazzica, soprattutto nel mondo rap, diciamo, si scatena sempre tantissima curiosità. Innanzitutto, e voi avete fatto un video molto simpatico dove appunto ognuno di questi artisti che abbiamo detto faceva anche un po' una presentazione di quello che sarebbe stato il disco. Apprezzamenti, ma anche un po' di critiche, soprattutto dal punto di vista dei puristi. Questo no, non lo dovete chiamare, questo non mi piace, questo mi piace, io sono fan di quello o di quell'altro. Ma in realtà tutta questa serie di nomi che abbiamo detto nasce da un confronto tra di voi della band, da che tipo di esigenza, ecco, nasce l'aver chiamato così tanti artisti? Anche per dire esigenza, se c'è un'esigenza di fondo è quella che ti ho appena detto, cioè quella di cercare di descrivere la trasversalità che ha questo disco attraverso una scelta trasversale degli ospiti. Se avessimo fatto, che ne so, la versione di Curru Curru Agliò 2.0 con tutti i gruppi rap napoletani, pure sarebbe stato possibile, però l'avremmo fatto diventare un fenomeno locale, quando invece addirittura sotto certi punti di vista internazionale. Allora avremmo potuto scegliere di fare la versione con tutti i gruppi più militanti possibili e immaginabili. Siamo tanti, non tantissimi quanti vorremmo essere, ma sicuramente sufficienti per fare anche un doppio disco, Curru Curru Agliò. Però anche in questo caso avremmo fatto collettivo, avremmo ribadito tutta una serie di cose, ma probabilmente non avremmo fatto un passo fuori dalle nostre situazioni. Luca, adesso... La nostra idea è sempre stata quella di provare ad andare oltre, no? Luca. E quindi, siccome ci sono più di un artista, e in questo disco ci sono quasi tutti, che hanno avuto a che fare o con noi o col nostro disco, o in gioventù o in perfetto parallelismo, nel senso che con praticamente Enzo Avitabile e Bassotti sono più grandi di noi, erano dei nostri punti di riferimento addirittura quando noi abbiamo fatto il disco. Tutti gli altri ospiti o sono nostri contemporanei o sono venuti anni dopo. Luca, senti, io ti faccio... In qualche maniera hanno avuto un rapporto con questo disco, che in qualche maniera li ha influenzati, li hanno ascoltato, gli ha cambiato qualcosa, gli ha confermato qualcos'altro. No? Luca, senti, adesso di ti faccio... Tutti quanti hanno accettato molto volentieri di parteciparci, tutti quanti senza prendere una lira e tutti quanti devolvendo gli incassi all'asilo Gaza, all'asilo Arrigoni a Gaza. Senti Luca, adesso ti faccio il nome di due città italiane, ovvero Napoli e Genova. Allora, cominciamo da Napoli. La Napoli che da ragazzino, diciamo, proprio tu frequentavi, insomma, all'università, ai centri sociali, negli spazi occupati, autogestiti. La Napoli dei gruppi... Guarda, rap. Ora, mentre rilascio questa intervista, sto nel gabbiotto fuori al centro sociale di Officina. Ecco. È il posto dove scrissi il documento nel 93, appunto. Nel 92. Però era anche la Napoli di primi anni 90, quella del famoso G7. Secondo te questa Napoli com'è cambiata negli ultimi 20 anni? È ancora la città che tu cantavi, appunto, della droga, dei ragazzini che non vanno a scuola, dei mille problemi, che però, cito testualmente, tiene la pizza, il sole e il mandolino? È una Napoli più cattiva, più povera, più generosa, più... Come la trovi la Napoli 20 anni dopo? Ah, si assomiglia molto alla Napoli, di quando ero ragazzo. Molte cose si sono esasperate, forse ci sono oggi qualche episodio di violenza gratuita, modello newyorkese, molto più simile, ecco, alle metropoli europee di quanto non avvenisse prima. Ma il grande cuore, le grandi contraddizioni, la grande capacità di essere solidali rimangono invariate. Napoli è una delle poche città dove Casa Pound Italia non ha una sede, perché gliel'abbiamo sempre impedito di aprirla. Napoli è una città dove solamente negli ultimi 5 anni si sono quintuplicate le occupazioni, ce ne sono almeno 3 a Fuori Grotta, altri 3 o 4 al centro storico, 1 ai Colleminei, dappertutto, al Vomero, e incominciano ad occuparsi anche stabili a scopo abitativo, che è una novità per Napoli, che è una delle capitali da sempre dei senza tetto e dei disoccupati, ma che non ha mai avuto un grosso movimento di occupazione di case. Ultimamente c'è anche questo. Quindi c'è molto fermento, vedi, insomma, è ancora un'ottima risposta dalla città. Le mie risposte le devi sempre considerare come uno che però ti guarda la realtà dal basso, dal mezzo ai vicoli. Non mi fare proprio domande sull'amministrazione comunale, su come perché sono tutte cose che, come dire, negli anni sono un po' cambiate, un po' migliorate, poi sono tornate indietro. Le cose reali che resteranno immutabili e che se cambiano in meglio, avvengono sempre dal basso. Senti Luca, l'altra città italiana di cui ti volevo fare una domanda era appunto Genova, ho detto. Nella canzone Mai più io sarò saggio, contenuta nel vostro precedente lavoro Cattivi guaglioni, scrivevi: noi siamo morti a Genova a luglio 2001. Luca, oltre ovviamente a Carlo, ci spieghi qual è il senso della frase? Chi è che è morto a Genova e quale eredità lasciano quei giorni di luglio? Quando ho scritto Noi siamo morti a Genova, intendevo dire che una parte di noi è morta a Genova, insieme a Carlo, insieme a quel grande movimento unitario che eravamo riusciti a mettere insieme, che da quel momento non ha ancora smesso di sgretolarsi e dividersi in milioni di sottogruppi. Ma in qualche maniera, forse un po' più che metaforicamente, sono morti anche i 99 posti, nel senso che qualche mese dopo abbiamo smesso di suonare insieme, anche se la notizia ufficiale del nostro scioglimento è avvenuta intorno al 2004, in realtà noi eravamo già sciolti alla fine del 2001, per cui era proprio letterale questa cosa, noi siamo morti a Genova, così come era letterale il mo ce lo riprendiamo, questo mondo che in qualche maniera si è fermato a Genova. Ovviamente è una lettura molto intima della questione Genova, perché Genova non è significata la morte del movimento o la morte dell'impegno per me è significato questo. Io ho avuto quello che io definisco il periodo blu, che è iniziato subito dopo Genova, e non ho mai fatto un collegamento diretto tra le due cose, ma penso che se avessi accettato di frequentare un po' più a lungo lo psichiatra dove mi sono recato, ci sarei arrivato a trovarlo questo nesso, perché non può essere casuale. Decidere di perdersi per l'ennesima volta, perché poi mi ero già perso tante altre volte da ragazzino, decidere di perdersi ormai uomo adulto di nuovo, subito dopo un evento come quello di Genova, non penso sia stata una cosa casuale. Comunque, resta il fatto che la storia ci racconta che a un certo punto mi sono ritrovato e ora ormai sono 5-6 anni che sono un'altra persona, quindi più che un'altra persona, sì, sono un'altra persona, perché non si torna indietro, però trovo molti punti di somiglianza con la persona che ero prima. Luca, senti, ma visto che a te piace... Tra tutti quello che più interessa è la voglia di contribuire al cambiamento, questo è di continuare a gridare con orgoglio la mia diversità, il mio essere differente, il mio non essere solo in questo essere differente. Ma Luca, tu visto che ti piace, hai detto, parlare dal basso, il tuo punto di vista è sempre quello del basso, quello dei movimenti, dei luoghi autogestiti e auto-organizzati, pensi che hanno, diciamo, preso l'eredità, diciamo, il testimone di Genova 2001, i movimenti, i ragazzi di cui mi parlavi prima? Sicuramente molti di loro lo vivono come un momento mitologico, nel quale erano troppo giovani per poter partecipare, diciamo così. Ma da Genova in avanti i giovanissimi hanno avuto più di un'occasione per comprendere che cosa significa quando lo Stato smette di avere delle regole. Quando il gioco si fa completamente caotico, quando lo scaricabarile diventa quasi di tutti su tutti, sono cose che abbiamo visto succedere almeno 3 volte a Roma, 15-20 volte in Val di Susa, 15-20 volte a Chiaiano, per dire solamente alcuni dei posti che adesso mi vengono in mente, e solamente negli ultimi 2-3 anni. Per cui non c'è più bisogno della lezione di Genova. Genova si ripete ormai ai noi in quasi ogni grossa manifestazione popolare che si tenta di mettere in piedi. Luca... Ma i giovani non smettono di affollarle queste manifestazioni, questo è un altro dato rincuorante, diciamo. Come noi all'epoca, alla quinta, sesta denuncia, processi in corso, mazzate pigliate, arresti, continuavamo ostinatamente ad andare in piazza e a reiterare il nostro atto, l'abbiamo anche scritto in una canzone, voglio noi reiterammo. Non ci spaventa né reato, non ci ferma né condanna. Ecco, questa cosa che dico oggi è una cosa che, come dire, parla di me a 20 anni, parla di me a 40 anni e parla di tanti vent'anni di oggi, quando io ho 40 anni. Luca, è una delle tematiche che, scommetto, ti interessava a 20 anni, ti interessa a 40 anni e ti interesserà sempre, perché lo vedo che lo trattate sempre in ogni lavoro che fate, rimane l'antifascismo. Quel fascismo che fino agli anni 80 era quasi innominabile, tanto che fascista, mi ricordo io da ragazzino, non è che sono molto grande, insomma, mi ricordo da ragazzino era addirittura un insulto. Al progressivo invece, proprio dagli anni 90 in poi, non a caso ti faccio questa domanda, sdoganamento appunto del fascismo e della figura di Mussolini, che venne addirittura definito da Berlusconi, non so se te lo ricordi, uno che ha fatto molte cose buone, che mandava gli oppositori in vacanza, in villeggiatura. Luca, quello che ti chiedo io è, nel mondo del 2014, che senso ha essere antifascista e come lo si è nella pratica quotidiana? Ha un senso profondissimo, perché oggi il fascismo è un rischio reale per la vita libera delle persone nel proprio paese, per la libertà di espressione e per quello che è un fenomeno che nessun fascismo mondiale potrà mai arrestare, che è il fenomeno della migrazione. Per cui è una cosa quasi antistorica, è come un partito che decide basta con questo senso in cui gira il pianeta rispetto al sole, dobbiamo investire, è impossibile fermare i flussi migratori, è impossibile fermare il melting pot, gli stessi imbecilli che parlano di purezza della razza dentro di loro hanno i cromosomi di almeno 16 razze, e quindi è un'imbecillità starli a sentire, è pericoloso averci a che fare, e quindi è importantissimo isolarli in quanto più è possibile e stigmatizzare sempre, ogni singola volta, le loro cazzate, perché poi questa è l'unica grande novità, ecco, dell'ultimo decennio, è che bugiardi sono sempre stati, ma a questo giro incominciano a esagerare come bugie, insomma, l'assoluta mancanza di chiarezza, se sono razzisti o non sono razzisti, se sono fascisti o se non sono fascisti, se sono dei picchiatori o non sono dei picchiatori, sono solamente alcune delle cose sulle quali hanno, come dire, più di un interesse a non fare chiarezza. Come si fa a fermarli? Con la violenza proletaria, io credo sia l'unico modo reale. La stessa che è mancata alla fine del secondo dopoguerra e che, se ci fosse stata, avrebbe impedito a dei nonni teste di cazzo di insegnare a dei figli teste di cazzo, che poi avrebbero insegnato a dei nipoti teste di cazzo, e per cui oggi noi ci troviamo con un mondo infestato di teste di cazzo che devono fare il saluto romano invece di andarsene a fare in culo. Luca, quel guaglione che nel 93 correva è arrivato da qualche parte, continua a correre? No, corre sempre, non si può fermare, è una sorta di depuratore in movimento, se si ferma scoppia, è un meccanismo complicato quello della gossa. L'idea ci venne così materialmente, perché eravamo sempre in corsa e ci accorgevamo che ad essere di corsa come noi, magari per motivi differenti, erano tutte le persone che conoscevamo, mentre invece tutte quelle che appartenevano ad altre classi sociali potevano permettersi l'ozio, potevano permettersi la serenità. Quindi questa metafora ci è sempre piaciuta moltissimo, solo che non è proprio una metafora, perché è anche una descrizione letterale poi di quello che uno è e del modo in cui affronta le cose. Senti Luca, nella canzone Vilipendio dici che non cambia atteggiamento fino a che non cambia il vento. Io ti faccio quest'ultima domanda e poi ti saluto. Ma Luca, sto vento quando cambierà e come? Il vento cambia se ci mettiamo a soffiare tutti quanti in una direzione uguale, diciamo. Finché soffiamo un po' a cazzo c'è il vento, però è un venticello strano. Per cambiare la direzione del vento bisogna soffiare molto forte tutti quanti insieme. Questo è l'obiettivo. Poi il vento a cui facevo riferimento io là era il vento della censura, il vento dell'intimidazione, il vento dell'ipocrisia di un sistema giudiziario che finge di essere giusto e in realtà si accanisce in maniera spesso anche inspiegabile, come è successo a me, sugli ultimi, sui miserabili, per poi essere invece debolissimo, addirittura assente, quando a commettere i reati sono noi potenti. Luca, senti, noi andiamo in onda a Roma, nel Lazio, qui a Radio Città Aperta, ma a Roma quando contate di venire? A Roma ci siamo il 26 aprile, se non sbaglio, all'Orion. Il 26 aprile all'Orion, quindi insomma, per i nostri radioascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento, il 26 aprile, insomma, è un'ottima occasione per sentire i 99 Posse con Curre Curre Ovaglio 2.0, non un passo indietro. È importante, credo che sia stato molto importante nella scelta, insomma, del titolo, aggiungere questo non un passo indietro. Sì, è anche una citazione di uno slogan della Madres de Plaza de Mapo che abbiamo sempre nel cuore. Luca, ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Grazie a te. Ciao. E salutando Luca Persico, ovvero Ozulu, la voce dei 99 Posse, ricordiamo a tutti quanti voi radioascoltatori di cercarci su Facebook per poterci, insomma, aggiungere. Il logo è quello di Radio Città Aperta. Su Twitter @luogoc, oppure su mail via mail a luogocomune.radio@gmail.com. Invitiamo appunto tutti i nostri radioascoltatori a visitare il sito www.radiocittà. radiocittàaperta.it. Come sapete, insomma, se seguite un po' le notizie locali, Radio Città Aperta, insomma, sta in lotta perché la Regione Lazio, dopo 15 anni, non vuole rinnovare la convenzione della diretta radiofonica del Consiglio regionale. Il taglio ad un servizio di pubblica utilità è un attacco molto grave al diritto dei cittadini all'informazione indipendente e alla trasparenza, è un modo per strangolare economicamente un'emittente storica. Quindi c'è un presidio davanti alla Regione Lazio da martedì scorso, potete venirci a trovare appunto in piazza Oderico da Pordenone 15. Sul sito internet radiocittàaperta.it ci stanno tutte le info anche per sostenerci economicamente. Se volete che continuare a sentirci, ecco, bisogna muoversi tutti insieme. Da luogo comune è tutto, vi do appuntamento a venerdì prossimo ore 13:30 da Valentino De Luca. Un buon venerdì e soprattutto un buon weekend. Ciao.